tifo, ahimè, di 4 volte. Dottoressa Lettino, quindi tifo calcistico. Ah. Tu pensa del tifo tifo. Che Torino va forte. Oggi siamo più Torino. Torino, Torino batte Ancona oggi. Andrea Vitali, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto, naturalmente. Grazie mille anche a tutti coloro che come me non si intendono di geometria e quindi di triangoli. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio andare di fretta, i rumori, la nebbia, il tempo appeso di questa città. Odio le scarpe col tacco che incastro di strappa. Lei è una delle mie cantanti preferite. Sì. Ah. E poi Emma è anche il nome del mio cane. E c'è. E poi si è fatta fotografare. Sentito. Ma a me piace molto. Perché è un nome breve, te la ricordi? Ugo. E poi tra l'altro si è fatta anche fotografare da Uomo Ragno. E così è stata una cosa divertente, un po' per esorcizzare la prova costume. È giovane, se lo può permettere. Mettiamola così, però guarda, Nicoletta, posso dire una cosa? Che qua mi sembra che sia tutto un far di conto. Ieri abbiamo fatto i conti con la Tasi, oggi facciamo i conti con i chili in più che pesano proprio come una tassa sulla nostra salute. Tornare in linea e recuperare il peso forma non è solo un problema estetico, come dicono i nostri esperti, però mi sembra proprio che sia un vero investimento per la nostra salute. Sì, però vedi, parola investimento, tu mi dici sempre che bisogna diversificare, certo. Però per tornare in forma non ci sono tante ricette, perché la ricetta è sempre uguale, ha fatto due ingredienti, mangiare meno, anzi mangiare meglio, una dieta varia ed equilibrata e muoversi di più, non c'è scampo. No, infatti. Però vorrei anche dire che sembra facile, evidentemente qualcosa non torna se alla metà degli italiani, circa il 46%, come dimostra un'indagine della Coldiretti, ha qualche chilo di troppo, 1 su 3, il 35,6% è sovrappeso, 1 su 10, il 10,4% è addirittura obeso, gli uomini in media sono più grassi delle donne. Hai visto? Il 55,5% di loro è fuori forma contro il 37,1% delle donne e il ritratto in negativo riguarda anche i ragazzi giovani, ben il 26,9% dei ragazzi fra i 6 e i 17 anni è sovrappeso. D'altra parte, sai, tante volte abbiamo detto e sentito ripetere dai nostri esperti che i bambini italiani sono i più morbidi d'Europa, però come fai tu quando vedi i mercati, gli scenari e trovi dei trend positivi? Anche in questo caso nella ricerca si intravedono dei segnali positivi, perché siamo sovrappeso, è vero, ma sappiamo di esserlo e cerchiamo di porre rimedio. Un italiano su 5 si è messo a dieta in vista delle prime giornate di mare e 1 su 4 ha intenzione di farla al più presto, quindi qualcosa si muove. Certo, dai. Però guarda, la donna di denari è andata a caccia anche di notizie economiche legate alla ricerca della forma fisica. Guarda qua che bella indagine che ti ho portato, realizzata da Poings, che è una delle società più note nel settore dei gruppi d'acquisto online nel nostro paese, e questa indagine ci racconta delle cose molto interessanti, tanti numeri, guarda, leggiamoli insieme. Per ritrovare il girovita, il 9% degli italiani sceglierà abbonamenti in palestra e corsi di fitness, e un 6% del panel che è stato interpellato per questa indagine, per snellire i punti critici un po' pigroni, si affiderà ai massaggi, pochi sacrifici, anzi quasi nessuno, si preferisce fare poca fatica. La fatica di stendersi sul lettino, infatti. Poi guarda, l'81% del campione si affiderà a trattamenti estetici, a pacchetti dimagranti per eliminare centimetri di troppo, e chiaramente c'è la caccia ai coupon in cui trovare naturalmente trattamenti miracolosi a poco prezzo. C'è anche una cifra: per l'estate 2014 gli italiani sembrano disposti a spendere in pochi mesi circa 250.000 euro, parlo naturalmente di un gruppo complessivo, in coupon dedicati a pressoterapie, criolipolisi, ho detto giusto? L'ho messo giusto l'accento. Cavitazione, quindi sono tutti questi nuovi trattamenti accompagnati da cerette, solarium e beauty day rigeneranti. Chissà che cosa stanno facendo le nostre amiche, che cosa stanno programmando, magari sono alla ricerca, come dici tu, del coupon, hanno prenotato i massaggi. Tra l'altro Milano, ho letto che è la città, una delle città più vanitose, la città della moda. Esatto, magari dove girano anche un po' più soldini, perché è la città dove si lavora molto. Secondo in classifica c'è Roma, al terzo posto Torino. Un'altra cosa che voglio raccontare è molto divertente e la conosciamo molto bene, basta vedere l'affollamento delle palestre in questo periodo. Fra le scelte last minute non mancano lo sport, non manca lo sport. Molto popolari sono le full immersion atletiche con abbonamenti di 3 mesi in palestra o pacchetti di 10 lezioni. Queste scelte sono fatte da circa il 5% del campione interpellato da Points, e però insomma sperano che in 3 mesi molti si possano rimettere in forma miracolosamente, chissà. Allora, e voi che cosa fate? 800 24 00 24. Vi state preparando o anche quest'anno arriverete in ritardo come i sindaci? Deborah, di molte con città. La TASI. Con la TASI. Quasi non fate come la TASI. L'80% dei sindaci è in ritardo sulla formazione delle aliquote. Allora, chiamate subito il nostro numero verde. Oggi non vi suggeriremo scorciatoie, ma vi metteremo in una corsia preferenziale per arrivare in forma e soprattutto in salute alla prova costume. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente lo ha mai fermato. E tutto a più forte lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello, ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da e chi ha tempo non aspetti casa, tempo, parole sante in tutte le circostanze, anzi inizi a fare una cosa che non farà bruciare calorie ma ci aiuterà a raccogliere tutte le informazioni necessarie per mantenere o recuperare la forma perduta. Chiamate subito il nostro numero verde, in linea a rispondere a tutte le vostre domande. Salutiamo con grande piacere il dottor Massimo Gualersi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato. Cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica sempre della Fondazione Don Gnocchi di Parma e all'Università di Parma. Dottor Gualersi, aiutati che il ciel t'aiuta. Funziona anche per la prova costume, direi, perché ci sono dei trucchetti, chiamiamoli così, anche se sono assolutamente confermati dalla scienza, che permettono a chi sta seguendo una dieta equilibrata e anche che sta praticando anche un po' di attività sportiva di ottimizzare i risultati ed essere quindi con soddisfazione ripagato dei suoi sforzi, perché insomma cambiare richiede sempre un po' di fatica. Sì, cambiare è molto faticoso, soprattutto quando ci siamo un po' stabilizzati e quando no, andiamo via routinariamente. Quindi ben venga, diciamo, la prova costume, anche se non dovrei dirlo da medico, no? Sì. Perché cosa rappresenta la prova costume? Rappresenta un obiettivo, anzi rappresenta uno scopo più che un obiettivo, rappresenta lo scopo che mediamente è quello che manca. Tutti noi abbiamo un obiettivo in testa, cioè quello di dimagrire, ma spesso durante l'anno non riusciamo a farlo perché manca uno scopo. Ecco che la prova costume, essendo lì pronta, visiva, no? La riusciamo a identificare, può essere quel comburente necessario per passare all'azione. Quindi oggi lavoreremo sull'acronimo OSA, obiettivo scopo azione. Ecco, io oggi proverò a darvi qualche trucchetto, qualche strategia giusta e fisiologica per appunto avere delle azioni più efficaci senza dover diciamo sconvolgere più di tanto la vita quotidiana. Allora, intanto, dottor Gualersi, noi abbiamo chiesto agli amici da casa e alle amiche che cosa stanno facendo per prepararsi alla prova costume, se magari ci stanno già pensando, e arrivano già al 349-238-6666 molti messaggi e abbiamo già le telefonate che tra poco sentiremo. Allora, corsa, ci scrive un ascoltatore, le piace questa indicazione, dottor Gualersi? Diciamo che già, adesso possiamo anche farvi meglio, ma diciamo che la corsa va già bene. Allora, invece Luca ci scrive, la dieta della fertilità, seguita con mia moglie, niente di raffinato, verdura e nuoto, 4 kg per sì, ci sentiamo bene, aspettiamo un bambino. Perché molto spesso poi il rilassamento e ritornare alla natura, ai ritmi biologici, alla cronobiologia aiuta non solo a dimagrire ma a stare in pace con se stessi, e tutto un insieme di cose che sicuramente ci fa ottenere anche questi nostri obiettivi. La mia soluzione per rimanere in forma, Alberto della Spezia, infatti, Debora, è di lavorare con i miei dipendenti quando sono in cantiere con loro. Posso dire che per un po' conflitto di interessi mi interessava, già lei ride perché sì, già sa dove voglio andare a parare. Infatti te, dai, me lo volevi mettere sul piatto d'argento, come si dice. Federico da Treviso racconta: c'è anche il peso percepito, dottor Gualersi, ci conforti in questo. Molte donne, per esempio mia moglie, si sentono grasse e mangiano meno del necessario. Sì, questo è un grosso problema, nel senso che poi l'aspetto psicologico, e quindi non accettarsi, contribuisce non solo a vedersi più brutti, ma anche ad essere più peggio di come in realtà ci potrebbe essere. Sicuramente l'accettazione e anche un po' di oggettività verso se stessi aiuta tantissimo, non solo appunto ad accettarsi, ma anche a migliorare il proprio metabolismo, perché la negatività e appunto le visioni negative, se fanno una cosa, diciamo che peggiorano il nostro stato di benessere e anche il nostro metabolismo. Vogliamo sentire subito gli ascoltatori. Molto volentieri, andiamo a vedere chi abbiamo in collegamento telefonico. Abbiamo Fabrizia, la nostra prima ascoltatrice di oggi, ci chiama dalla provincia di Mantova e noi la salutiamo con affetto. Fabrizia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Nicoletta. Buongiorno. Sono felicissima di sentirvi, di parlare con voi, perché vi ascolto tutte le mattine dal mio negozio. Brava Fabrizia. Fantastico, e concordo pienamente quello che dice il dottore, praticamente che la vita salutare va bene anche però anche pensare in maniera positiva e affrontarla anche con un'altra, con uno spirito positivo, e tutto va meglio. E io, per tenermi in forma, faccio, dicevo prima alla segretaria, mezz'ora di bicicletta tutti i giorni da 20 anni a questa parte, se non di più. Mi tengo in forma, cerco, ovviamente seguo anche un certo tipo di dieta, e mi fa star bene, mi rigenera. Se alla mattina ho dei problemi, che torno a casa, che ho le trabecole per la testa, sì, mi faccio il mio giro in bici, in mezzo ai campi, in mezzo alla natura, mi fa star benissimo. Eccola. La mia cura è quella. Quindi chi se ne frega della prova bikini, Fabrizia? No, chi se ne frega, no, io sono in forma. Cioè... Fabrizia ci sente tutte le mattine. Allora, la pausa pranzo, io vado alla pausa pranzo, mi faccio la mia mezz'ora, 40 minuti, in bicicletta. Invece Debora, di 40-45 anni, ci dice anche la sua età, chi di Udine, fa un'ora di ciclette in casa, ma nel contempo, per non annoiarsi, fa la maglia o l'uncinetto. Fantastica. Ha visto? Fabrizia, lei andando in giro in bici per le stradine della campagna, la maglia non la può fare, ma nel frattempo, se si annoia, può cantare o pensare a noi. Penso, guardo la natura, fantastico. Grazie Fabrizia. Qua invece dobbiamo rimettere in sesto Beppe, perché ci scrive: se mi metto in costume mi denunciano. Per cui vorrei anzi che ci chiamasse Beppe, che ci raccontasse quali sono in questo momento un po' i suoi limiti estetici, chiamiamoli così, e noi gli daremo qualche consiglio. Questo sole, come calda la tua pelle, che si brucia sulla sabbia. Ma sarà poi vero che quando arriva il caldo a molti scende la fame? Come mai a me questa cosa non è mai successa? No, Nicoletta? Un po' ti succede anche a te. Sì, vabbè, ci viene voglia di bere forse un po' più di cose che non vanno, però anche lì. Dottor Gualersi, anche qua dobbiamo prepararci, ancora ci sta andando bene perché il caldo soffocante non è arrivato, e quindi questa perdita di appetito forse ancora non la stiamo aspettando. Esatto. Perché il caldo a molti fa un effetto anoressizzante, vero? Come dite voi in medichese. Ma in realtà diciamo che la bella stagione ha un grande vantaggio, cioè di far durare di più le giornate, quindi riusciamo a toglierci dalla bocca quello che diciamo sempre: non abbiamo tempo per... Ecco, essendo le giornate più lunghe ed avendo anche meno bisogno di ore di sonno, riusciamo ad alzarci un po' prima, e quindi magari a dedicare un po' più di tempo alla nostra colazione, e questo ci fa sentire meno fame durante la giornata. Quindi più di un effetto anoressizzante è che molto spesso con il caldo riusciamo a fare colazione, quando d'inverno magari la facciamo meno abbondantemente e abbiamo meno tempo. In più un aspetto molto importante è che con il caldo si va a letto anche un pochino dopo, e per quanto sia corretto andare a letto non troppo tardi, però si distanzia un po' la cena dal fatto di andare a dormire. Ecco, ritardando un po' la cena e l'ora in cui si va a dormire, anche questo il metabolismo ne trae giovamento, e quindi può digerire e non accumulare tutto quello che mangiamo a cena. Infine, con il caldo facciamo una cosa fondamentale: beviamo molto di più. Ecco, che bere, se dovessimo dare il primo consiglio, diremo anche che cosa magari bere, ma diciamo che bere in assoluto acqua è la prima fonte di dimagrimento per lo stimolo del metabolismo, perché teniamo conto che tutti i processi energetici sono fatti in presenza di acqua e quando non diamo all'organismo acqua non possiamo fare energie, quindi non possiamo nemmeno bruciare i nostri depositi, quindi iniziare già dalla mattina ad esempio a bere. Ecco, ad esempio, se io ti chiedessi, Deborah, quanto hai bevuto, non lo chiedo a Deborah perché vedo che già lei beve. Lo sai che non bevo tanto. Quanto avete già bevuto stamattina, da quando vi siete alzate? Conta anche il latte nel latte caffè del mattino? Dottor Gualerzi, lo contiamo il latte caffè? Conta anche quello, anche se sappiamo bene che bisognerebbe iniziare con altri liquidi. In realtà io ho la bevanda di soia. È meglio? Sì, allora questo è meglio. Dai, hai guadagnato qualche punto. Allora, sì. Acqua, tè, latti vegetali. Che cosa avete bevuto da stamattina? Proviamo a quantificarlo e lo diciamo al dottor Gualerzi all'800240024. Dottor Gualerzi, proprio nei giorni scorsi, mi sembra lunedì, sai che io perdo un po' i conti? Abbiamo parlato di tiroide, abbiamo capito che non è come ci raccontiamo, vogliamo far credere, la responsabile del nostro sovrappeso, almeno non la sola, insomma la classica frase sto a dieta ma non dimagrisco perché la tiroide che funziona poco mi sa non regge tanto, forse il nostro metabolismo, come accennava lei, a essere un po' assonnato e noi possiamo svegliarlo mandandogli dei segnali, no? Attraverso piccoli cambiamenti alimentari, fare colazione appena dopo il risveglio perché ci permette di comunicare all'organismo che può consumare energie senza preoccupazione. Poi invece quando noi iniziamo la giornata saltando la colazione, l'organismo dice oddio, devo risparmiare, eccolo qua. Poi suggerite di non saltare i pasti, di fare degli spuntini, di intervallarli ogni 3 ore, mangiare qualche cosa, possibilmente qualche cosa di salutare, quindi un frutto. Questi sono dei piccoli consigli comportamentali che anche lei ci suggerisce nel nostro Daily Lab, che aiutano a risvegliare il nostro metabolismo. Ma, dottor Gualerzi, si può fare di più? Sì, diciamo che oggi diamo dei suggerimenti per fare qualcosa di più e soprattutto farlo in fretta, perché i suggerimenti che abitualmente diamo sono quelli che servono per la vita di tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Adesso concentriamoci sulla prova costume come nostro scopo, no? Sì. E quindi abbiamo poco tempo per risvegliare questo metabolismo. Mm-hmm. Allora, innanzitutto partiamo subito appena svegli bevendo almeno 2 bicchieri d'acqua a temperatura ambiente. Okay. E con qualcosa all'interno, ne abbiamo già parlato altre volte, che potrebbe essere l'aceto di mele. L'aceto di mele ha questa proprietà, un cucchiaino per ogni bicchiere, ha questa proprietà di risvegliare il metabolismo, perché attraverso, a differenza di quello che si può immaginare, essendo acido al sapore, ma alcalinizza il sangue, questo modo di alcalinizzare il sangue è un modo per sfiammare, quindi per stimolare il metabolismo, per togliere gli accumuli di grasso e quindi per far partire in quinta il nostro metabolismo. Fare una buona colazione, poi farla seguire da una buona colazione ricca appunto di energia per la giornata e quindi per dare un segnale, come ha detto giustamente lei, al nostro metabolismo che può partire in quarta. Far partire tutti i pasti con verdure verdi. Le più studiate sono, ad esempio, in questo periodo trova molto interesse le spinaci. Le spinaci sono ricche di clorofilla e ricordiamo che anche quando mangiamo cibi verdi, questa clorofilla ha un'azione molto importante, che è quella di veicolare l'ossigeno e l'energia nei nostri muscoli. Spesso non facciamo il metabolismo addormentato perché non arriva alla periferia, non arriva al muscolo la giusta quantità di energia e quindi ci sentiamo stanchi. La clorofilla sembra appunto una sostanza che ci regala e che ci offre la possibilità di stimolare il metabolismo. Quindi iniziamo ogni pasto con un abbondante piatto di verdura verde e mettiamo in primis le spinaci. Un altro aspetto è quello di utilizzare appunto bevande sotto forma di centrifugate. Qua vi do la ricetta di un centrifugato che potrebbe andare molto bene per sbloccare il metabolismo. Lo si può gustare sia a metà mattina, a metà pomeriggio, ma anche completamento della colazione. Dove dobbiamo mettere dentro? Avocado. Perché usiamo l'avocado? Perché è uno dei frutti che si trovano tra l'altro adesso e che è ricco di omega 3. Gli omega 3 sbloccano il metabolismo, aiutano a bruciare i grassi. Deborah, scrivi, brava. Scrivo, dai, che avocado. L'ho comprato sabato e l'ho pagato €4,90. Parliamone. Era quasi un melone, però ecco. Allora metallo, dai, a me, così vedi, risparmi. Era ottimo, dottor non Gualerzi. Serve tutto, nel centrifugato basta metterne un'abbondante fetta. Quindi, ok, avocado. Allora, poi zenzero, quindi radice di zenzero fresca, perché tutte le spezie piccanti e pungenti accelerano tantissimo il metabolismo, principalmente fanno bruciare il colesterolo e quindi per rimpiazzarlo nel sangue andiamo a toglierlo dai depositi di grasso che troviamo nel nostro corpo. Quella ce l'ho io, lo zenzero, e te lo porto. Una radice di zenzero, un pezzo di radice di zenzero, poi mela, perché la mela? Soprattutto la mela rossa. La mela rossa è ricca di piruvato, il piruvato è una sostanza che va a inibire direttamente gli accumuli di grasso. Questo piruvato mi piace molto. Molto, e diciamo che una mela al giorno toglie il medico di torno. In realtà la mela ha tante proprietà, no? Aiuta ad assorbire meno le altre sostanze, quindi se mangiamo un pasto ricco di grassi, diciamo aiuta a inibire l'assorbimento grazie alle sue fibre, ma soprattutto il piruvato contenuto principalmente nella mela rossa inibisce appunto gli accumuli di grasso. E infine possiamo mettere un po' di verdura come le carote, e sappiamo che le carote ricche di vitamine sono dei potenti antiossidanti, tra l'altro le carote hanno così tanta poca calorie che paradossalmente utilizziamo più calorie per digerirle rispetto a quelle che ci offrono, quindi hanno sempre un bilancio negativo, nel senso positivo perché bruciamo di più rispetto a quello che accumuliamo, ma negativo perché dobbiamo spendere energia, che è quello che vogliamo in questo momento. Quindi carote come antiossidante, quindi il nostro bel centrifugato, avocado, zenzero, mela e carota, e lo possiamo fare anche un paio di volte al giorno. Fantastico. Ho questo domani allora. Domani mi presento col beverone di zenzero e avocado. Quello che volevo dire, cerchiamo, se proprio vogliamo essere dei puristi, di centrifugare tutte queste sostanze e di non tardare molto nel berle. Sì, perché più la verdura, la frutta resta una volta centrifugata nel bicchiere all'esposizione più solare, si spegne un po', si ossida. Allora intanto iniziano le domande: al posto dell'aceto di mele quello balsamico, invece no, io uso il limone, io uso quello di lampone. Però per me che ho un po' di intolleranzina all'aceto e sai che non posso usarlo, volevo chiedere poi al dottor Gualerzi se posso usare un'alternativa. Dai che ti raccomando, se tu mi leggi i mercati. E vabbè, vado. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. Prova costume, il dottor Gualerzi in linea con noi. Osa, abbiamo deciso di puntare sull'obiettivo di rimetterci in forma, abbiamo questo obiettivo, cerchiamo di ottenerlo e di raggiungerlo attraverso la dieta con alcuni trucchetti per ottimizzare i tempi, ma dottor Gualerzi ci stanno arrivando tantissimi messaggi, noi tra poco parleremo anche di movimento, perché anche per il movimento c'è modo di allenarsi riducendo molto i tempi ma ottenendo ugualmente risultati. Diamo questa anticipazione ai nostri ascoltatori. Sì, diciamo che l'intensità può giocare a favore del tempo, cioè più siamo intensi e meno tempo dobbiamo spendere per fare attività fisica, quindi vale la pena magari fare meno minuti, adesso diremo come, molto più intensamente rispetto a fare magari perdere un'ora, un'ora e mezza, un passo lento che non produce quegli effetti, almeno nel breve tempo che vorremmo. Insomma, un esercizio breve e intenso, secondo i ricercatori, può dare risultati soddisfacenti in parte simile a quello ottenuto con un allenamento più lungo e anche più impegnativo. Tra poco la formula per allenarsi, ma dottor Gualerzi, l'aceto di mele, come sempre, apre una serie di domande da parte dei nostri ascoltatori. E se io soffro di gastrite, a me non piace l'aceto e se lo sostituisco col limone? Infatti. No, io invece che ho l'intolleranza non posso proprio utilizzarlo, dottor Gualerzi? Allora, diciamo che il limone ha lo stesso effetto, forse un po' minore, meno studiato, ma comunque ha lo stesso effetto. Diciamo che anche per chi ha la gastrite, paradossalmente, l'aceto di mele ha questi pH che comunque sono molto più alti rispetto a quelli che troviamo nello stomaco, hanno un effetto indifferente sullo stomaco, non è che peggiorano la gastrite, anzi. Si trasformano all'interno dell'organismo in sostanze che alcalinizzano, quindi che antagonizzano l'acidità. Certo, sono intollerante, oggi esistono anche delle pillole, no? E qui introduciamo tutto l'argomento poi degli integratori, ma delle pillole che contengono aceto di mele, quindi lo rendono più sopportabile, o comunque, appunto, ribadisco, anche il limone può avere lo stesso effetto. Vedi che il dottor Gualerzi ci ha praticamente lanciato il tema della seconda parte di Cuore Denari. Ormai, ma dove lo troviamo? Esperto. Sì, perché nella seconda parte di Cuore Denari parleremo appunto di integratori, di pillole, di nutraceutici, e quindi se li state utilizzando chiamateci, perché tante persone ne utilizzano anche tanti e diversi. Vediamo che cosa ci dicono i nostri esperti, se questa è una buona strategia oppure se non si rischiano delle interazioni e soprattutto degli errori. Allora, prima di muoverci abbiamo i nostri ascoltatori. Sì, posso tranquillizzare gli amici che ci seguono da casa che l'avocado che ho comprato sabato non era di Gucci, era molto buono, molto fresco. E diciamo che ho speso insieme all'avvocato un bel po' di soldini, perché mi sono voluta regalare delle primizie, e per cui insomma poi l'importante è che lo si sappia, no? Che si spende non perché tu vieni in qualche maniera obbligato dal fruttivendolo, ma perché scegli delle cose buone, molto fresche e soprattutto di primissima stagione. Allora andiamo, acqua naturale o gasata, dottor Gualerzi? Non riusciamo a tenere dietro i messaggi. Acqua naturale o gasata? Con l'aceto. L'acqua dovrebbe essere naturale, possibilmente a temperatura ambiente. Oggi, tra l'altro, vi do questa altra chicca, perché si parla che acqua bene, adesso senza voler fare nessun tipo di pubblicità, anzi mi dissocio e dico che oggi esistono degli apparecchi da mettere anche nell'acqua di casa, che sono dei depuratori a scambio osmotico, che rendono l'acqua di casa, possono rendere veramente un'acqua pura, a differenza di tutte quelle in bottiglia che comunque hanno dei residuati, no? Tra l'altro molti dei quali non vengono nemmeno studiati, e purificare l'acqua di casa, che già in Italia è di ottima qualità, può, diciamo, risolvere il problema sia della plastica, quindi utilizziamo anche meno bottiglie di plastica, sia da un certo punto di vista di essere sicura di avere un'acqua pura, e solo l'acqua pura riesce ad eliminare le tossine e quindi ad avere un'azione metabolicamente positiva. Sei rimasta senza parole. Sì, no, stavo pensando ad Aurora che ci chiama da Monza e sta aspettandoci, magari è andata a bere anche un bicchiere d'acqua. E poi abbiamo Michele da Milano e Gabriella dalla provincia di Lecco. Facciamo, come si dice, un'infornata di ascoltatori. Certamente. Invitando i nostri amici a continuare a chiamare al nostro numero verde 800 24 00 24, perché vogliamo anche i loro suggerimenti o anche il loro problema. Qual è il vostro problema? La pancia, la coscia, la cellulite? Dove volete rapidamente ottenere risultati? Noi siamo qua. Aurora, buongiorno. Buongiorno a voi. Io chiamo dalla provincia di Monza. Sì? Io al mattino bevo a digiuno acqua naturale a temperatura ambiente, o meglio ancora a bagnomaria. Ho perso 6 kg in un anno e mezzo, pur essendo in menopausa nel ottobre 2012, sì? Facendo 2 ore a settimana di zumba. Di Zumba, che Deborah conosce. Sa che qua abbiamo quasi una maestra, sì, di Zumba. Non la faccio più, però devo dire che effettivamente si perdono moltissime calorie, sì. Si consumano molte calorie con un'ora di questa disciplina. Allora, Aurora, devo dire che è perfetta, molto dottor intenso. Gualerzi. Sì, anche la dimostrazione del fatto che non si deve nascondere dietro la menopausa, per dire, la menopausa implica delle modificazioni, sì, che una volta appunto sapute, che le sappiamo, si possono attuare delle contromisure per ovviare a questi deficit, uno dei quali, le ho detto spesso, è quello di ridurre il sale, perché insieme a cosa prendere bisognerebbe anche fare la lista di cosa non prendere. Se uno in questo momento ha bisogno di rapidamente perdere peso, soprattutto dopo la menopausa, ma anche a tutte le età, è di eliminare drasticamente l'utilizzo del sale, perché in menopausa si perde la capacità di eliminarlo. Noi umani siamo meno abili ad eliminarlo, e questo, quando lo mangiamo, viene trattenuto, ci si espande di volume, si ingrassa, si accumula il grasso, e quindi è un altro buon suggerimento. Comunque a tutte le età si può dimagrire se si fanno le cose giuste. Gabriella, buongiorno dalla provincia di Lecco. Che ci attribuisce un po' delle responsabilità, Gabriella, buongiorno. No, io vi devo ringraziare, perché grazie a voi ho smesso di fumare. Gabriella, brava. Brava, però quei 6 kg di Aurora li ho raccolti tutti io. C'è sono stato tutta fatta ad ossi. Oh, Gabriella, è troppo carina. Un curioso principio di vasi comunicanti qua, Gabriella. Sì. Ma deve perderli o le stanno bene? No, questi no, non mi stanno bene. Mi vergogno tantissimo, non mi riconosco più, non mi va bene più niente. Intanto, Gabriella, lei ha guadagnato in salute. Ecco. E questo non c'è chi lo che tenga. Spero, ma il dottor Gualerzi sicuramente ha un'indicazione per le persone che smettendo di fumare, inevitabilmente, e dobbiamo metterli in conto, accumulano un po' di chili. Dottor Gualerzi. Diciamo che viene a mancare una sostanza che tra le tante cose negative è anche un aspetto, diciamo, positivo, che è un eccitante, quindi diciamo può aiutare a mantenere il metabolismo anche un po' più attivo. Si può ovviare benissimo questo problema aumentando un po' il consumo di tè, soprattutto tè verde. Abbiamo parlato più volte del tè d'ancia, che è un particolare tè verde che contiene poca teina e quindi che è poco eccitante dal punto di vista cardiaco, ma stimola comunque il metabolismo. Oppure anche caffè. Sappiamo che chi non è allergico, comunque a chi il caffè non dà problemi, non ha particolari problemi gastrici, in questo caso sì, ecco che la caffeina è un ottimo stimolante anche del metabolismo, e quindi possiamo, una volta smesso di fumare, bere un pochino più bevande a base di tè e di caffè. Dottor Gualerzi, adesso, subito dopo le informazioni sul traffico, le rubiamo alcuni minuti per raccontarci come ci si allena ottenendo ottimi risultati, ma con poco tempo e in modo intenso. Cuore e denari. Stavamo parlando con Deborah dello Zenzero, che metteremo naturalmente nella centrifuga che lei ci ha suggerito, dottor Gualerzi. Molti mi scrivono: no, la centrifuga, posso fare il frullato? Io direi di sì. Lei che cosa mi dice? Per me era equivalente, io non mi sono neanche posta il problema. La centrifuga è un investimento che consiglio, soprattutto quelle che girano un pochino più lentamente, che non alterano appunto la validità delle sostanze all'interno delle frutta e della verdura, perché un conto è centrifugare, un conto è frullare. Nella centrifuga vengono mantenute tutte anche le fibre. Ecco, vedi? Ma sono scioccata, per me era lo stesso identico principio che regolava i due movimenti. Ma se te lo dico, chiedi a me che so, perché a forza di sentirmi... Poi uno dice, altrimenti perché sul mercato ci sarebbe la centrifuga o il frullatore, perché si muovono in maniera diversa. Dottor Gualerzi, allora, noi siamo pronti per l'allenamento. Sì. Veloce, intenso, efficace, e quindi non abbiamo più scuse. Veloce, intenso. Dunque, diciamo tutti, il problema principale nostro è che ci muoviamo troppo lentamente. Quando facciamo sport spesso utilizziamo lo sport come la prima radioascoltatrice, cioè per rilassarci, e questa è una funzione fondamentale. Cioè quando arriviamo a casa da lavorare andiamo a fare una biciclettata, una passeggiata, e ci fa bene sulla mente. Ma sì, in questo momento il nostro scopo è la prova bikini, e l'obiettivo è quello di dimagrire, quindi l'azione per fare questo è fare una interval training ad alta intensità, quindi 5 minuti di riscaldamento, giusto per non appunto contrarci dopo poco, e quindi 5 minuti di riscaldamento facendo elevare movimenti, un po' di stretching, e poi partire alternando 30 secondi a un'intensità sempre crescente, fino ad arrivare in questi 30 secondi alla nostra massima capacità, cioè vuol dire non riuscire a parlare, avere il fiato in gola, non riuscire ad andare di più o più velocemente. Sia esso questo esercizio fatto sulla cicletta, sulla bicicletta o di corsa, quindi andare a correre per 30 secondi alla massima velocità, o andare in bicicletta alla massima velocità, o sulla cicletta alla massima velocità. Finiti questi 30 secondi, iniziare 90. Svengo. E arriva il cardiologo, che è sempre lui. Finiti questi 30 secondi, invece di svenire, fare 90 secondi con un recupero attivo, cioè facendo lo stesso esercizio molto più blandamente. Quindi se abbiamo corso alla massima capacità, continuiamo a correre per 90 secondi a un passo lento che ci permette di recuperare. Quante volte questa cosa? Senza fermarci per 6 volte. E quindi complessivamente quanto complessivamente con un 20 minuti, 20 minuti. No, riusciamo ad avere un'azione simile a quella di un'ora d'allenamento. Fantastico. Ma stasera provo. Questo è un beniamino dell'attività incredibile. Fisica. E ogni giorno o giorni alterni? Sarebbe sufficiente farlo 4 volte la settimana. 4 volte. Anche perché vi svelo un'altra cosa: quando arriviamo ad avere un'intensità così alta di attività fisica, si innescano dei meccanismi metabolici che permettono al metabolismo di rimanere alto anche il giorno dopo, cioè per 24 ore dopo aver finito. Quindi in realtà continuiamo a dimagrire anche la giornata dopo che abbiamo fatto. Si prende talmente un colpo, si spaventa, che gli rimane la palpitazione al nostro metabolismo anche il giorno dopo. Anche il giorno dopo. Però, dottor Gualerzi, dobbiamo, prima di fare questi 20 minuti, un attimo scaldarci, un po' di riscaldamento magari ci vuole. 5 minuti. Non ho capito, mi ero persa, ero talmente concentrata su questi 20 minuti perché così intensi. Perché Deborah vuole andare al sole. Intanto facciamo salutare il dottor Gualerzi, che so che scappa con il nostro prossimo volentieri, ospite. Volentieri, vai. Tra l'altro si conoscono già. In linea con noi abbiamo il dottor Arrigo Cicero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ricercatore all'Università di Bologna. Sì. Che conosce anche il dottor Gualerzi. ovviamente di lunga conoscenza e cara conoscenza. E ciao, che, dottor Cicero, il dottor Gualerzi ha già anticipato il tema di cui parleremo con lei. Sì, ho vagamente sentito. E quindi noi parleremo con lei di integratori, una grande famiglia, c'è chi li chiama nutraceutici. E molte persone però pensano, io non uso pastiglie e pastigliette, il problema non mi interessa. Certo. Dottor Cicero, ci vuole fare un elenco dei prodotti di cui parleremo? Non sono solo pastiglie, cosa sono? Sì, in realtà il concetto di integrazione sta cambiando negli ultimi anni, tant'è vero che molte persone che non pensano di assumere integratori perché non prendono pastiglie con la scritta integratore, integrano tramite l'assunzione di yogurt variamente pubblicizzati per contenere vitamine, probiotici, calcio, assumono prodotti che vantano di essere ricchi in omega 3 e molto spesso sono arricchiti in omega 3, paste addizionate o panni addizionate con delle fibre che ancora una volta non sono lì naturalmente ma sono aggiunte, per cui in realtà anche non volendoli assumere siamo bombardati da un'integrazione non sempre necessariamente assunta con una finalità specifica. Va bene, direi che oggi anche col dottor Cicero siamo in buone mani, per cui il dottor Gualerzi può lasciarci tranquille. Esatto. Dottor Gualerzi, ce la faremo. Ecco. Grazie. Ho anche delle domande per Cicero, naturalmente, perché certo. Già io sono andata a casa e ho pensato ai miei due che prendo, perché devo chiedere lumi. E intanto, grazie dottor Gualerzi, intanto 800 24 00 24, chiamateci, che cosa state prendendo, che cosa vi è stato certo. consigliato, che risultati avete ottenuto. Tra l'altro abbiamo anche delle cifre relativamente al mercato degli integratori e della nutraceutica, ve ne racconto alcuni perché qua la donna di denari si mette sempre in movimento, sempre più italiani si affidano a questi integratori e questo mercato tra il 2012 e il 2013 è stato in crescita di circa il 5%, un mercato che vale complessivamente oltre 2 miliardi di euro tra prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e supermercati, perché anche molti centri commerciali hanno il loro corner con questi prodotti. Da solo... Sì? Più internet che magari naturalmente fa anche amplificare la cifra sul valore di mercato complessivo. Anzi, forse quello, dottor Cicero, è un mercato parallelo che andrebbe un po' più tenuto sotto controllo. Che ne dice? Sicuramente molto più tenuto sotto controllo, perché in realtà non tutto ciò che si trova in rete è qualcosa di tracciabile, codificabile, soprattutto per i contenuti. Per cui sicuramente. Tra l'altro posso dire che io ho fatto un po' un parallelo, ho cercato se su internet potevo trovare quelli che prendo ad un prezzo differente, devo dire che non ho trovato nulla, per cui evidentemente anche forse una differenza segnale. Di prezzo notevole è un segnale da perché da oggi affermare. Con il dottor Cicero vogliamo cercare di capire qualcosa di più di questa grande famiglia dal punto di vista del cuore, inteso come la salute, sono necessari, ci fanno bene, ci possono essere delle interazioni, ma anche dal punto di vista dei denari, perché certo. costano parecchio, allora sì. come possiamo essere sicuri di spendere bene i nostri soldi? Andiamo a sentire qualche ascoltatore, Deborah? Andiamo velocemente, andiamo a... aspettava da un po' Michele da Milano. Michele. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ogni giorno faccio mezz'ora di ginnastica al mattino. La cosa particolare è che trovo, diciamo, di supporto l'utilizzo di alcuni applicativi sull'iPad. Che fanno partire da un allenamento di base sì. e poi loro stessi ogni giorno fanno magari una pausa di un giorno tra un allenamento e l'altro, ogni giorno chiedono qualcosina in più. Quindi accompagnano la persona da un livello magari di base a fare sempre di più e arrivare anche a quello che si diceva prima, quindi a degli allenamenti molto molto faticosi, molto intensi. Devo e rapidi. Dire che ho avuto dei buoni risultati, perché in questo modo in 2 anni senza alcun altro tipo di supporto ho perso circa 16 kg. Quindi una prova costume eccezionale. Tra l'altro proprio Nicoletta ne parlavamo, volevamo fare una trasmissione dedicata a tutte queste nuove applicazioni che vengono molto utilizzate anche dal mondo, come dire, salute 360 certo. gradi, e lo faremo senz'altro. Dottor Cicero, abbiamo allora 16, no, dobbiamo salutarlo, vero? Dottor Cicero, senta con noi il GR, poi abbiamo tantissime domande per lei. Vuole farne una ai nostri ascoltatori? Sì. Sicuramente la domanda principale è chi vi consiglia gli integratori che prendete? Cuore e denari. Si può vuole un fisico bestiale. Beh, non è che ci vuole proprio un fisico bestiale per arrivare alla prova costume. Decoroso, ecco, dignitoso, dignitoso, decente. Allora, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Arrigo Cicero, ricercatore all'Università di Bologna. Cerchiamo di rimetterci in forma e parliamo anche di quei prodotti che utilizziamo per ritrovare la linea, per mantenerla, per mantenere o per ritrovare il benessere, per tenere sotto controllo alcuni fattori di rischio, per ridare un po' di sprint alle nostre giornate, per dormire un po' meglio. Insomma, dottor Cicero, si chiamano nutraceutici, è una grande famiglia, un termine ombrello che comprende cibi funzionali, probiotici e prebiotici. Oggi con lei cercheremo di fare chiarezza e di trattare questo tema alla cuore denari, quindi con un occhio alla salute ma anche uno al portafoglio. Lei ha fatto una domanda molto diretta ai nostri ascoltatori: chi ve li consiglia? E noi invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa stanno consumando, che chi li ha appunto spinti ad acquistare questi prodotti e che benefici hanno. 800 24 00 24. Dottor Cicero. Sì. Diamo delle indicazioni ai nostri ascoltatori, perché noi abbiamo nei confronti di questi prodotti un vissuto molto positivo. Ci affidiamo a questi prodotti con la speranza che funzionino, ma anche tranquillizzati dall'idea che male non ci potranno fare. Ecco. E qui sicuramente un attimo di attenzione bisognerebbe porla, se non fosse altro che il male potrebbe farlo al portafoglio dei nostri ascoltatori. Ci sono due idee di base abbastanza peculiari, nel senso che esistono prodotti che funzionano, sì. Esistono prodotti che funzionano anche molto bene per specifiche condizioni e per specifici pazienti o soggetti che li vogliono assumere. Però esiste anche un mercato selvaggio in cui indubbiamente molti prodotti contengono poco o niente, potrebbero essere non controllati dal punto di vista della qualità dei principi attivi e quindi indubbiamente bisogna stare attenti. In Italia in realtà più che trovare dei prodotti potenzialmente pericolosi è molto più probabile trovare prodotti soprattutto sulla grande distribuzione che contengano poco o niente. Io come faccio a capire se contengono poco, niente o tanto? Allora, guardi, dei suggerimenti che sì. Ci sono due o tre suggerimenti che io do normalmente alle persone per orientarsi in maniera abbastanza chiara. E le prime cose a cui bisogna stare attenti indubbiamente è quando anche così palesemente il prodotto tende a promettere tanto. Gli integratori non nascono per curare, per cui indubbiamente quando vi sono delle promesse, premesse anche di immagini particolarmente indicative sulle scatole che ti facciano pensare che con una compressa al giorno perdi 15 kg nel giro di una settimana o cose di questo tipo, già la serietà è scomparsa. Sì. Seconda cosa un po' più tecnica, di solito consiglio sempre di guardare le confezioni girandole e verificare quali sono i primi componenti riportati nell'elenco del contenuto. Sì. La maggior parte dei prodotti, soprattutto di basso costo, iniziano con gli eccipienti, quindi vuol dire che fondamentalmente le sostanze che servono per tenere insieme la compressa occupano la maggior parte della compressa, quindi c'è da chiedersi cos'altro ci possa essere dentro. Ci dà un paio di nomi di eccipienti da poter riconoscere? Guarda, il primissimo è la cellulosa. Quello proprio lo mettono ovunque, alle quindi volte mettono rischiamo di pagare la cellulosa e non la grezza inerte, rischiamo di pagare. Il terzo consiglio, non so se ne ha tre, ma mi era sembrato sì, che ce ne fossero tre. Il consiglio normalmente è quello di tentare di evitare prodotti che contengano 200 componenti, cioè quando un prodotto, un integratore che funzioni, che abbia una finalità specifica, può contenere 4-5 componenti massimo. Quando si incominciano a vedere oggetti che contengono 12 piante medicinali, 4 vitamine, 6 minerali e quant'altro, e in compresse da 200 milligrammi, uno si chiede che cosa c'è dentro ancora una volta. Pizzichi, chiarissimo. Pizzichi su pizzichi. Però. 800 24 00 24, ci state scrivendo, prendo il lievito di birra, la pappa reale. No, ma poi tanto, polline. Il lievito di birra si intossicano di compresse da quello che leggiamo. Hai letto Tina? Ma sì, 15-20 al giorno, dottore, mi sembrano un po' tante. Beh, perché esistono delle leggende metropolitane che ampiamente diffuse in questi settori, questa idea che il lievito di birra faccia bene. Il lievito di birra fondamentalmente è una fonte di vitamina B, d'accordo, però per esempio può dare o facilitare molto anche la comparsa di fermentazioni, essendo un lievito ed essendo utilizzato per la lievitazione, chiamandosi lievito, cioè sì, ci deve venire qualche sospetto, qualche sospetto dovrebbe farlo venire. Questa idea che detossifichi, cioè, non è mai stato particolarmente provato, insomma, diciamo. Abbiamo capito che il lievito di birra il dottor Cicero non è il suo amore esattamente, come nutraceutico, certo. Il lievito di birra. Allora andiamo ai nostri ascoltatori. Francesca, che segue un po' le vicende in palestra di suo figlio, ci chiede aiuto. Francesca, buongiorno. buongiorno. No, niente, è una cortesia. Io ho mio figlio che sta frequentando palestra. Quanti anni ha Francesca, il suo bambino? Ha 25 anni. E siccome io sono una mamma che guarda le etichette, cosa contiene, cosa non contiene, cioè vedere mio figlio che si fa sti beveroni di proteine, a me viene l'ansia. Volevo sapere. Ma Francesca, le viene l'ansia perché non mangia su più i suoi piattini? No, mi viene l'ansia perché mangiare naturale, ecco, non so che cosa prende. Anche perché gli hanno aumentato anche le proteine di carne, per cui mangia più carne, oltre questi beveroni di proteine vegetali. Ma sarà bellissimo però sto ragazzo, Francesca. Sì, sta venendo fuori un bel ragazzo. Bene. Però io guardo la salute, non guardo la bellezza, per l'amor del cielo, ecco. Non allora, ecco. Francesca, la affidiamo al dottor Cicero. Dottor Cicero. Grazie. Allora, questo è un problema molto diffuso. Molto diffuso e sul quale c'è veramente molta, molta poca chiarezza. In realtà, nella maggior parte dei casi, quando vengono somministrati questi quantitativi mostruosi di proteine, sono quasi totalmente inutili ai fini della creazione della massa muscolare, perlomeno come quantità, e sul lungo termine tendono a favorire problemi di tipo a fegato e reni, che si devono occupare dello smaltimento degli eccessi proteici. Senza dover dire, perché non verrebbe recepito molto bene, che tutto ciò si possa fare con una dieta equilibrata. E indubbiamente quello che serve a un organismo che cresce in massa muscolare sono pochi aminoacidi, che sono gli aminoacidi cosiddetti essenziali, quelli che noi non riusciamo assolutamente a produrre col nostro organismo. E fondamentalmente se una supplementazione in 5, 6, massimo 10 grammi al giorno di soli aminoacidi essenziali consentono l'utilizzo di tutti gli altri aminoacidi che vengono assunti con la dieta, senza dover prendere beveroni da 20, 30, 40 grammi al giorno di proteine. Perfetto, la mia scelta è più una selezione di ciò che realmente serve, che è il must in qualche maniera di tutta l'integrazione, piuttosto che prendere grandi carichi di tutto di più, che certo, che quindi un po' un'integrazione fatta su misura. Questi aminoacidi essenziali si trovano esistono delle formulazioni commerciali che si chiamano aminoacidi essenziali, sì. Sono in bustine solubili, per lo più esistono anche in compresso, è un po' più comode, però dovendo prendere dei quantitativi nettamente inferiori non serve veramente caricare con decine di grammi. Come può controllare tra l'altro la mamma, allora, Francesca, la mamma di quel ragazzo di prima, se il quantitativo, la qualità è corretta di ciò che prende suo figlio? Ma a priori i carichi di proteine, soprattutto i carichi di proteine animali, sono a priori scorretti. Sì. Anche perché, ribadisco il concetto, se uno prende grandi quantità di proteine che contengono pochi aminoacidi essenziali, se mancano i mattoncini essenziali, tutto il resto non viene utilizzato per fare massa muscolare. Lorenzo, vediamo, mi sembra che abbia un problema abbastanza simile. Sì, siamo sulla stessa linea, esatto, infatti in parte gli avete già risposto. Lorenzo, lei che fa? Sì. Prende integratori proteici? Io rispetto a Francesco, non ho ancora iniziato. Non ha la stessa età poi di Francesco, mi sembra, sì, ahimè. Ho 28 anni, esatto. Giovanissimo. Nell'ultimo anno ho perso 17 kg con una dieta, un regime alimentare di un certo tipo, e da 3 mesi ingerisco grandi quantitativi di proteine animali, quindi animali, quindi siamo sull'ordine dei 150-200 grammi al giorno di proteine. Mi è stato consigliato di integrare con dei prodotti proteici, di proteine del latte. Ma chi è che gliela ha detto, Lorenzo? Vorrei sapere questi consigli. All'interno delle palestre ci sono personal trainer che fondamentalmente sono bodybuilder, che l'hanno fatto loro in prima persona, e che quindi nei periodi in cui mettono su massa muscolare ingeriscono 5.000 calorie al giorno, con anche quantitativi di proteine allucinanti. Io mangio carne bianca e affettati tipo bresaolo e tacchino nell'ordine del mezzo chilo, 6 etti al giorno, insomma. Quindi mi sembra che l'integrazione sia veramente abbastanza poco utile. Infatti. Ma io non so, Lorenzo, ma come fa tra l'altro a tollerare un'alimentazione di questo tipo? Io mangio gran frutta e verdura, fondamentalmente, non mangio pane, pasta, cose di questo genere, mangio dei cereali e carne fondamentalmente bianca. Ecco, ma dottor Cicero, una dieta così, un po' che stressa molto il contenuto, l'apporto di proteine, ecco, di proteine, e poi Deborah sottolineava molto calorica, alla lunga? Sul medio e lungo termine ha sicuramente delle difficoltà di smaltimento da parte del fegato e dei reni. Ecco. E soprattutto il rene, che ha una grande fatica, è molto affaticato da questo tipo di gestione, e considerando che soprattutto poi chi si sottopone non tanto a un training aerobico ma a sforzi isometrici importanti, mi riferisco a chi fa, come si suol dire in gergo, massa, sollevando grandi carichi, si sottopone anche a forti sbalzi pressori, cioè quindi con una pressione che spara verso l'alto e che a sua volta tende a dare dei problemi a livello renale, di conseguenza il tutto dovrebbe essere molto molto calibrato. E quindi anche per il nostro ascoltatore vale lo stesso il suggerimento che ha dato al ragazzo, quindi aminoacidi essenziali e non proteine. E c'è chi sostiene che l'aminoacido essenziale costi di più, però ancora una volta, se noi facciamo il calcolo di quanto costa una dieta con 500 grammi al giorno di proteine di origine animale, più i beveroni venduti peraltro usualmente con un certo conflitto di interesse dalle palestre stesse, credo che alla fine il rapporto cosa vada dici? Ancora una volta a vantaggio della donna di denari, cosa dici? Io no, mi chiedo, io credo che frequentando l'ambiente delle palestre sia fatto assolutamente tutto in totale buona fede, e quello che mi colpisce sempre è un po' l'atteggiamento di sprovveduto che abbiamo quando ci affidiamo alla totale cura di un personal trainer per tutta la nostra forma fisica. Io penso che quella professionalità lì deve servire ad una determinata cosa, per tutto il resto c'è un medico, c'è il nutrizionista, c'è lo specialista del settore. Anche perché però, ci possono essere poi delle interazioni, ma io vorrei andare a Gianna che ci chiama da Roma e chiedere al dottor Cicero, poi abbiamo pensato alla prova costume, ci siamo occupati molto delle persone che vanno in palestra, naturalmente le nostre ascoltatrici ci dicono ma ci sarà qualcosa che funziona? L'integratore asciugarotolino, ecco. Adesso voglio sentire se c'è. Gianna, buongiorno. Pronto, sono Gianna, le mie adorate monelle, che sono due, che saluto con affetto e abbraccio. Un bacio. Dottor Cicero, voglio essere solidale con la carissima Deborah, che ha i miei stessi problemi. Noi abbiamo anche l'appetito durante l'estate. Non sempre, se ne va. Gianna, giorno. Il mio medico generico mi dice, lei signora è in buona salute, deve avere sempre un pochino di appetito. Brava. Un pochino. E poi, goloso. Poi quando dobbiamo fare sacrifici, Gianna, questa voglia di tutto si amplifica a dismisura. Però avere lo stimolo dell'appetito dice che è sintomo di buona salute. Ottimo, certo, Gianna. Al dottor Cicero. Ecco, al dottor Cicero volevo chiedere la questione sul caffè verde, gentilmente se va bene in erboristeria, io ho tanto paura di queste capsule che contengono che cosa e quanto. E poi alla carissima Nicoletta, che è una pratica, che è anche una donna di casa, di famiglia, volevo chiederle se farà un domani una trasmissione, dobbiamo riporre la roba invernale, oh, per sulla carità. Canfora, che dai Gianna, facciamola, sì, la trasmissione sulla canfora. Sulla voglio sapere perché era sparita e adesso è stata rimessa in uso, la posso mettere nei cassetti o meno? Alla prossima. Allora, dottor Cicero, ma è fantastica Gianna. No, Gianna è un mito, allora, è il numero uno. Dottor Cicero, caffè verde, allora, sulla canfora non so se lei sia preparato o no. sul cambio degli armadi, perché se ride? Preparato io la invito a casa mia. No, diciamo che per uso interno penso che sia abbastanza controindicato. Però il sul discorso del caffè verde, in realtà è uno dei pochi prodotti per i quali esiste un po' di letteratura clinica a supporto. Il problema è sempre quello dei dosaggi, perché è tanto più efficace quanto più è concentrato e quanto più ne è contenuto nei prodotti, tanto più efficace, tanto più però tendono a verificarsi, seppur meno che col caffè, i problemi legati a tutti gli stimolanti, per cui fondamentalmente la città in qualche modo un certo livello di nervosismo, eventualmente l'insonnia. Ma cosa fa in sostanza? È uno stimolante del metabolismo, quindi, a tutti gli effetti. Quindi un po' fa dimagrire. Allora ci dice dottor Cicero, abbiamo 10 secondi praticamente. Sì. Ci dice il kefir, magari anche se ce la facciamo velocemente, sì, per Claudio, senza farlo intervenire. Kefir, un commentino. Kefir va bene, dottor Cicero? Prego, scusi. Il kefir ci piace? Sì. Diciamo che è la fonte più naturale di probiotici naturali. Quindi una specie di yogurt. In qualche maniera, sì. Sì, una sorta, insomma, di è un fratello. Fase di fermentazione. Sì. È un cugino. Allora, due integratori per sciogli grasso, per mettere il turbo al metabolismo, ma proprio solamente due? Allora, adesso ci sono in Italia quegli integratori. Non ce la facciamo. Cissus. Mi dica? Cissus. Cissus? Che è un nuovo prodotto interessante di origine vegetale, e sicuramente il caffè verde ad oggi è quello che rende di più. Cissus e caffè verde. Sono già dimagrita di mezzo chilo, guarda. Ricordiamoci, avocado, zenzero, dottor Cicero, noi andiamo a segnarci tutto. Grazie per essere stato con noi. Grazie molte. Alla prossima. E noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.